Allora, benvenuti, siamo qui con Claudio, esperto in Medio Oriente, giornalista e combattente nelle battaglie di Tabqa prima e di Raqqa dopo. È venuto qui a raccontarci la nostra esperienza. Ora io cedo la parola direttamente a lui. Grazie per l'invito intanto. Vediamo un po' se ci sono le slide. Cercherò da questo incontro di farvi leggere meglio Afrin e da lì andare avanti, cercare di capire cosa succederà poi e cosa è successo fino adesso. Per capire Afrin, beh, non so quanto ne sappiate singolarmente, ma partirò dalla mappa, forse? Eccola, della nostra cara Siria. Vai pure avanti. Questa è la realtà aggiornata, in realtà prima della caduta di Afrin. È successo il 18, avrete sentito. Penso che molti di voi sapranno già leggere questa mappa. Per chi non lo sapesse fare, cerco di farvi capire rapidamente di cosa stiamo parlando. Perché una domanda che mi fanno spesso in realtà riguarda i colori, soprattutto il verde, cosa rappresenta. Il rosso sono le forze governative di Assad, ovvero quello che era il regime siriano, che ricordo che né più né meno di Ankara reprimeva la lingua curda, la vietava, e né più né meno di Ankara la riteneva il popolo curdo una realtà secondaria, minoritaria. SDF, la bandiera che vedete anche qui sotto, ovvero le forze democratiche siriane, ovvero noi. L'insieme di tutte quelle realtà, YPG, YPJ, quindi le unità di difesa femminili e quelle generali, popolari, che sono confluite in questo grande contenitore insieme anche ai cristiani, agli yazidi, c'è una bandiera yazida, credo proprio lì sulla sinistra, Yebeshe. Questo è quel mondo che abbiamo liberato. All'epoca c'era anche Afrin. Il blu è la Turchia, o meglio, non è esattamente la Turchia. Sono gruppi vari che qualcuno chiama ribelli. Questa mappa vi serve anche per capire quello che leggerete dai giornali, dai telegiornali nei prossimi giorni. Li chiama ribelli. In realtà, all'interno di questi gruppi ribelli, di ribelli non ce n'è più quasi neanche uno, probabilmente dal 2014. Ora ci sono diversi gruppi jihadisti, molto simili a ISIS, in alcuni casi ISIS. Persone che sono scappate prima che noi riuscissimo a circondare la città di Raqqa, che sono fuoriuscite molto prima che le nostre truppe si asserragliassero al di fuori delle porte di Raqqa, sono riuscite a entrare per la complicità turca e si sono ritrovati poi ad Afrin. Quindi ci sono veramente persone che hanno semplicemente cambiato casacca. Beh, l'altura del Golan direi che le sorpasserei rapidamente, visto che sono occupate dal 67. Il nero è ovviamente ISIS, l'ultima risacca di ISIS, che doveva essere liberata dalle forze democratiche siriane, e queste due, e questa del regime siriano. Al momento, ora mentre vi parlo, non ci sono più nostre truppe lì. Nessuno sta più combattendo ISIS lì. Infatti, settimana scorsa, un attacco di ISIS è riemerso, ha colpito due villaggi, ucciso due bambini in ingresso e ferito diverse persone della popolazione. Perché non ci sono più truppe nostre, in questo esatto momento in cui io vi parlo? Perché ovviamente erano tutte ad Afrin. Dopo aver liberato Raqqa da ISIS e aver tentato di liberare l'ultima zona di Deir ez-Zor, le nostre truppe sono state costrette a difendere quello che era stato costruito, difendere quello che era stato liberato, ovvero in quel momento Afrin. Cosa c'è lì? Delle postazioni di difesa, non sufficienti ovviamente. Quindi al momento l'attacco turco aiuta qualcun altro oltre a se stesso, ovvero ISIS, da un'altra parte del paese. Ma cos'è il verde? Forse è un elemento anche abbastanza interessante. Il verde lo chiamano genericamente su molte mappe i ribelli, un'altra forma di ribelli. Quello più scuro, che in realtà è quello più organizzato, più pericoloso, più strutturato, che ha preso i depositi di Assad, i carri armati e diverse altre strutture militari, quello più scuro è HTS, Hayat Ar-Al-Sham, un gruppo che si è mescolato a tante altre piccole realtà, diventando un gruppo terroristico molto organizzato, non molto differente da ISIS. Il resto sono più o meno gruppi misti, molti salafiti, forse qualche ribelle è rimasto, io non ne vedo molta traccia. Questa è la mappa della Siria a qualche settimana fa. Vai avanti. Ma per capire Afrin, quello che è successo, dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo farlo a Raqqa. Quando noi a Raqqa, nelle ultime battute, quando stavamo liberando la città vecchia, iniziavamo già a parlare di quello che sarebbe successo dopo Raqqa. Non eravamo ingenui, lo sapevamo, che una volta caduta Raqqa sarebbe arrivato prima o dopo il cosiddetto giorno del tradimento, in cui la base russa che si trovava ad Afrin, per loro strategica, per noi elemento dissuasivo per la Turchia, sarebbe sparita e gli americani avrebbero probabilmente chiuso un occhio. Questo è quello che è successo settimana scorsa, quando Afrin è caduta. Il 20 gennaio la base russa viene smobilitata, i soldati russi rientrano da questo passaggio, Ziara, e entrano verso Aleppo, lasciano un checkpoint militare qui. Gli americani, come sapete, chiudono un occhio. I turchi entrano letteralmente, fisicamente ad Afrin e gli americani non dicono nulla. Ricordo che gli americani araccarono la nostra aviazione. Cioè, noi chiamavamo in radio il nostro comando generale, il quale chiamava gli americani, gli davamo le coordinate e facciamo bombardare i palazzi che non si riusciva più a far avanzare, oppure che erano diventate di fatto un centro, una torre piena di miliziani che sparavano da tutti i lati. In quei casi ovviamente era richiesto un bombardamento. Questa era la situazione prima. È da questa situazione che si capisce quello che è successo dopo. Capite bene che una volta caduta Raqqa, una volta tolto l'interesse di molti paesi, il comune nemico che teneva insieme tante realtà che combattevano, il regime siriano, gli americani, i russi stessi, noi, tolto ISIS, improvvisamente il resto diventa più attaccabile. E così è nato Afrin. Questa immagine, quella, grazie, è di poco prima della caduta, circa 6-7 giorni prima della caduta. Come vedete, sono subentrati da tutti i lati, turchi jihadisti, cosiddetti pseudo-ribelli. Però soprattutto qua è interessante. Come mai qua c'erano dei turchi? Vedete che questa è un'area direttamente all'interno della Siria. Qua sono entrati dopo l'accordo di Astana. La Russia, l'Iran e la Turchia hanno fatto entrare truppe turche, hanno accettato che entrassero truppe turche qui, per fare cosa? Da cuscinetto ai jihadisti di Hayat al-Sham. Avevano una funzione antiterrorismo, i turchi, in quell'area. Indovinate dove hanno puntato i cannoni? Non qua, ma sopra. Di fatto quell'accordo ha sancito la prima fase dell'occupazione di Afrin, dando la possibilità di creare un avamposto militare. Qua ce ne sono ancora, gli avamposti militari. Tra l'altro pochi giorni fa un missile lanciato da Aleppo ha colpito una postazione turca e ribelle. È stata una scaramuccia, la chiamano in gergo. E loro hanno risposto colpendo un quartiere di Aleppo. Quindi ci sono ancora postazioni turche, tutte qua. Nonostante Afrin, sfortunatamente, sia la città che ormai 5 ore fa è caduta anche la provincia. Mi spiace darvi questa notizia, ma anche la provincia di Afrin è sotto controllo turco jihadista al momento. Questa è la mappa, in realtà aggiornata a ieri, non è più così. Anche questa zona qua è stata occupata. Vai avanti. Cos'è la prima cosa che hanno fatto i turchi e i gruppi jihadisti che sono subentrati ad Afrin? La prima: bruciare la bandiera delle donne, quella che vedete qua alla mia destra. La prima cosa che hanno fatto è mostrare al mondo, davanti alla piazza, quello che loro ritenevano. Ovvero hanno preso la bandiera delle nostre unità di difesa femminile, ve le ricorderete, le famose ragazze dai capelli lunghi con i Kalashnikov in spalla, e gli hanno dato fuoco. Hanno preso il consiglio cittadino. Com'è organizzata Afrin, come tutte le altre nostre città, era una confederazione democratica. C'è un consiglio di cittadini di varie religioni, yazidi, cristiani, islamici, di varie realtà, di varie etnie, che parallelamente amministra la città. Questo è caduto ad Afrin. La seconda cosa che hanno fatto è colpire il cuore e la mente del popolo curdo. Mostrare immediatamente qual era la loro identità contraria a quella curda. Hanno distrutto il monumento principale della città, che è Kawa, che nella mitologia curda è uno dei fondatori. Hanno distrutto uno dei simboli del Nevroz, il capodanno curdo. È un po' come se attaccassero l'Italia e distruggessero il Colosseo. Penso che tutti noi piangeremo sicuramente lacrime amare a perdere un monumento simbolo dell'Italia. Qui ancora di più, questo era l'unico che avevano, era simbolicamente l'identità del loro popolo. L'hanno distrutto, perché perdere tempo militarmente durante un'avanzata, un'occupazione di una città, distruggere un monumento? Per questo, per colpire il cuore e la mente che rappresenta quel monumento. E infine, hanno fatto quello che hanno fatto tanti altri gruppi jihadisti, hanno iniziato le esecuzioni. Quello è il frame di esecuzione di un combattente e di una ragazza. La ragazza non c'è, viene successo dopo. Dopodiché sono avvenuti dei colpi alla popolazione, hanno iniziato l'esecuzione nella piazza centrale. Quale altro gruppo vi ricorda questo? Esecuzione in una piazza centrale, lo stadio di Raqqa. Vi ricorda qualcuno, questo ragazzo qua in mezzo? Questi sono i jihadisti insieme ai turchi che sono entrati ad Afrin. Questo è ISIS. Questo è dimostrato essere un ex combattente di ISIS che è entrato con le milizie ad Afrin. Come vedete anche il simbolo e il segno che fanno, tipicamente ricollegabile non solo a ISIS, ma in questo caso specificatamente a ISIS. Questo è quello che... Queste sono le persone che sono entrate ad Afrin. Ma chi c'era ad Afrin? Prima che vi faccio sentire un audio, siete tra l'altro i primi in Italia, perché domani lo darò ai giornali, che sentiranno l'audio che è arrivato qualche ora fa dal combattente del SOS di Roma e poi da un vostro concittadino, Tecosciar di Firenze. Lo sentiremo fra pochi secondi. Voglio farvi ricordare chi c'è in quella zona gialla che è stata distrutta da questa avanzata turco-jihadista. Chi sono quelle persone? Sì, certo, molti di voi diranno YPG, YPG, le forze democratiche siriane. Sono qualcosa di più. Sono coloro a cui dobbiamo molto, perché il giorno che Raqqa è caduta tutto il mondo era grato, tutto il mondo era felice, tutto il mondo gioiva, onorando lo sforzo e il sacrificio dei nostri compagni combattenti. Quelle persone che sono state debellate, sono spinte via, quel territorio che è caduto, sono i liberatori di Raqqa, i resistenti di Kobane, coloro che hanno dato piena libertà e dignità alle donne. Sapete cos'è il copresidenzialismo? È quello che c'era lì. Una stazione, dei pompieri, una strada, un ente, una scuola, un uomo e una donna. Copresidenzialismo. Tutti i ruoli hanno un uomo e una donna. A parità, qualunque amministrazione. Questo è crollato ad Afrin. Questo è crollato lì. Non è crollato solo un territorio, è crollato un'idea che era stata creata e applicata. Questo è crollato. E dall'altro lato c'erano questi. Apri il primo audio. Quest'audio, un secondo, arriva da Del Sos, combattente romano nelle file delle YPG, che è rimasto fino agli ultimi istanti, fino al 18, dentro Afrin, a combattere sotto le bombe turche, insieme a Gelat di Rovigo, che vi posso dire che è tornato a casa sano e salvo, l'abbiamo fatto uscire, adesso è a Rovigo, da pochi giorni in realtà, e insieme a Tecosciar di Firenze, e poi c'era la combattente YPG di Torino, Eddy. Prego. Allora, noi qui è un bagno di sangue dei civili, perché l'esercito ha circondato la città. Ah, scusate, questo è il primo. Sanno bene che non possono entrare in città così facilmente. Ferma un secondo, scusate, questo è un errore mio. Questo qua è precedente. Questo qua è precedente alla caduta. Tecosciar è quello che è arrivato oggi, poche ore fa. Quindi prima vi faccio sentire questo, che doveva fammelo rivedere, fammi vedere il file. Me lo dal 12, era sulla chiavetta. No. Vabbè, faccio direttamente sentire quello di Firenze, l'altro lo guardiamo, c'è stato un problema prima. Ovviamente una brutta sconfitta, è un brutto colpo. È stato un peccato dover lasciare la città, però appunto si è preferito mettere in salvo la popolazione e non sì, è un brutto colpo per la causa curda, per la Siria democratica, ma penso sia una sconfitta, ecco, di tutto il mondo. Avevamo il sostegno popolare, c'è, cioè in tutta Europa abbiamo il sostegno di tanta gente e in tanti vorrebbero supportare la nostra causa, però appunto l'aiuto che contava, che poteva fare la differenza, era quello dei vari governi del mondo. Si trattava appunto niente di chissà che, bastava istituire una no-fly zone e avremmo evitato questa brutta situazione, avremmo evitato di consegnare una regione così bella in mano a questa bande di jihadisti senza scrupoli, avremmo evitato non so quanti di preciso, ma tanti tanti civili di Afrin, della provincia di Afrin, che sono stati a parte evacuati, quelli che non potevano lasciare le proprie case perché erano anziani o malati sono stati cacciati fuori, penso con la forza. Sì, ho visto dei filmati a giro che non... però insomma la gente per lo più se n'è andata perché insomma sapevano con chi avevano a che fare, non sappiamo che genere di persone sono quelli dell'FSA, sono appunto, non mi stancherò mai di ripeterlo, sono quelli lì che conosciamo, sono Al-Qaeda, Al-Nusra, ISIS, sono estremisti islamici, salafiti, insomma. E, appunto, è assurdo tutta la storia che la Turchia possa armare e supportare sta gente indisturbatamente, è una cosa inconcepibile, ma è andata così, è un brutto colpo per noi, ma un brutto colpo per tutti, ecco. E ora vedremo, perché probabilmente la Turchia non si sa, ci sta che ora che ha visto che può agire indisturbata, probabilmente che può fare i suoi comodi, probabilmente spingerà da altre parti, magari nel Bashur, magari a Membij, a Kobane, insomma. Quindi non lo so, secondo me non lasciandoli terreno a questa gente vuol dire risorse, vuol dire lasciarli un vantaggio enorme. E non è un pericolo solo qua per il Medio Oriente, è un pericolo, ecco, per tutto il mondo. Questa cosa dovrebbe far riflettere, però ecco, immagino che chi ci fa interessi soprattutto continuerà a farceli. Il popolo è dalla nostra parte, sono quelli che stanno sopra che comunque continuano a lucrarci. Niente, noi siamo qui, continueremo a combattere. Un saluto a tutti, ciao. Comunque, le ultime ore come sono state? Sono state che noi volevamo rimanere per difendere la città e la Turchia ha cominciato a bombardare indiscriminatamente la città e la popolazione è andata nel panico. Hanno cominciato piano piano i primi giorni con colpi d'artiglieria e poi un paio di bombardamenti aerei contro, penso, obiettivi militari che avevano scoperto loro, e poi hanno cominciato col terrorismo indiscriminato contro la popolazione e hanno cominciato a far volare ieri sopra e i droni che giravano da tutte le parti, ieri che volavano sopra, proprio sopra Rasora, il più vicino possibile alla città per spaventare la popolazione. E quindi il consiglio della città ha deciso di abbandonarla e mentre l'abbandonavamo sono cascate una marea di bombe. Io non lo so come faccio a essere vivo, perché ma tanti, è stata una cosa straziante vederlo, è stata una cosa straziante, io ho mai visto una cosa del genere, una fila di 10 km di macchine, di gente in fuga dalla città, una cosa straziante, è stato un atto di terrorismo, come tutte le guerre d'altronde, ma questo proprio terrorismo assoluto. Beh, avete sentito? Sì. Avete sentito la voce del SOS il romano, Tekosher il fiorentino, da Afrin, questo è arrivato qualche ora fa? Tutti e due gli audio. Mi dai gli slide. Attualmente la popolazione civile dov'è finita? La popolazione civile è stata evacuata all'ultimo istante perché in realtà la popolazione non voleva andarsene. La popolazione ha cercato di difendere casa propria, volevano rimanere lì ed è per questo che hanno aspettato fino all'ultimo secondo. Non volevano andarsene. Parliamo tra le 200 e 250 mila persone solo in quell'area, quindi solo nella città, ora ovviamente sono molte di più. Ma dove sono ora? A Shaba, che è l'ultimo spicchio. Vai pure avanti. C'è lì, scrivo. Abbiamo un po' di problemi tecnici, ragazzi, benvenuti a Rojava. No, prima, vabbè, arriviamo anche a quello, resta lì. La popolazione è in questo ultimo spicchio che si chiama Shaba, a ridosso di Aleppo. Aleppo, la città amministrata dal regime, c'è un quartiere però all'interno che si chiama Sheikh Mossud ed è un quartiere a maggioranza curda. La popolazione doveva andare lì insieme a delle facility, c'erano degli ospedali, delle cliniche che dovevano prendere in carico i pazienti e i feriti. Ricordiamo che ci sono stati quasi 500-600 feriti, se non di più, solo in quell'offensiva. Lì dovevano andare, ma il regime ha detto di no. Quindi nessuno ha potuto dirigersi verso dentro la città di Aleppo. Sono dovuti rimanere fuori tra Aleppo e il quartiere di Shaba, l'area di Shaba, nell'ultimo spicchio di Afrin. Attualmente ci sono persone in strada, ferite, appoggiate a quello che hanno trovato, con dei campi profughi che come tali non si possono sicuramente chiamare, state letteralmente di strade, casette, quello che hanno trovato in quell'area. Questa è la situazione di ora dei profughi. Però, parliamo un attimo anche, vi ho messo questa slide su ISIS perché credo che sia importante capire l'atteggiamento di chi ha invaso Afrin, ma anche ricordarsi da cosa viene tutta la conoscenza e forse in certo modo anche la fama della resistenza di Kobane, di Raqqa, di tutte quelle città, incluse in realtà Afrin, da ISIS. Ma qua in realtà farei delle domande a voi, a qualcuno di voi. Cos'è ISIS? Cosa vi fa pensare ISIS? C'è qualcuno che ha un'idea di cosa sia ISIS in questa sala? Immagino lo conosciate, ditemi se sbaglio. Qualcuno lo conosce? Beh, buono. Vabbè, vado a caso. La ragazza bionda lì dietro, una parola su ISIS? Cos'è secondo te? Cosa ti suscita immediatamente? Un'organizzazione, una parola. Violenza. Violenza. Proviamo qualcuno più indietro. C'è un ragazzo in fondo in foto con i capelli corti. Sì, proprio tu. ISIS. Un minestrone fatto per muovere, cioè la guerra, interessi militari. Un minestrone solo a Firenze, immagino lo diciate, perché a Padova, a Milano non me l'hanno mai detto questa cosa. Però un minestrone per muovere interessi e guerra. Violenza, vediamo. Vabbè, ma tu ne sai. Andiamo un attimino. La ragazza bionda sul tavolo, ISIS. Io? Sì. Terrorismo, violenza, un minestrone di guerra, di interessi che portano alla guerra? Sì, io direi organizzazione con idee musulmane estreme ma finanziata dagli Stati Uniti per destabilizzare Siria. Ok, con un elemento di destabilizzazione finanziato dagli Stati Uniti, fondamentalista islamico. Ok, più o meno sono tutte queste cose, a grandi linee in realtà, sul finanziamento americano è un po' più complesso, nel senso che di fatto gli americani, anche in un famoso intervista della Clinton all'Atlantic, hanno lasciato spazio a ISIS, come in altri contesti, hanno fomentato il contesto in cui ISIS è nato, in Iraq e Siria, ma non vi faccio una conferenza su ISIS. Però è vero, solo che il finanziamento non è diretto, è una forma indiretta, passa da Kuwait, Arabia Saudita, passa da dei sistemi differenti, quindi è scorretto dire che gli Stati Uniti hanno creato ISIS, è corretto dire che gli Stati Uniti hanno creato le condizioni che hanno provocato ISIS, questo assolutamente. Ma ISIS è anche qualcosa in più, forse l'avete visto nel video all'inizio in cui se ne parlava. ISIS è una forma mentis, è un modo di pensare. Voi quando pensate a ISIS tendenzialmente vi immaginate Italia gola, no? Le gole tagliate, eccetera. Ma vivere a Raqqa non era solo questo. Vivere a Raqqa era la quotidianità. Uno degli atteggiamenti di ISIS più famosi era il pizzo, che immagino questa parola capite non essere araba. Il pizzo era una tecnica molto utilizzata da ISIS, andavano nei negozi, rompevano qualcosa e dicevano adesso devi farti proteggere, sei scoperto, non ti sta aiutando nessuno, pagaci. Questo era un atteggiamento di ISIS. ISIS è anche un insieme di persone come potrebbe essere questa sala, che un giorno, la sto semplificando molto, ma che un giorno si è messo insieme e ha detto, beh, la pensiamo tutti più o meno così? Le donne ci stanno sulle balle e le vogliamo i fornelli? Perfetto, mettiamoci insieme. ISIS è tante di queste cose. Chiaramente è anche uno strumento atto alla guerra, senza alcun dubbio. La strategia di ISIS è quella della guerra, è quella di creare paura col conflitto. I cristiani un esempio. I cristiani per restare a Raqqa dovevano pagare oppure morire. E anche quando pagavano, tendenzialmente venivano contrastati con della violenza. Non potevano parlare in pubblico. Sapete cosa non si poteva fare anche a Raqqa? Non si poteva avere la manica più larga di un centimetro, questo a grandi linee. Non si poteva, la donna non poteva parlare ad alta voce vicino a degli uomini, sconveniente, frustate. Narghilè, una famosa pipa araba, non si poteva. Un signore che abbiamo incontrato a Tabqa dopo che abbiamo liberato la città, ci serviva dell'acqua, una cosa che assolutamente teneva, voleva farci vedere, era questa benedetta pipa araba che lui aveva nascosto per 4 anni sottoterra. Lui aveva un negozio, gliel'hanno distrutto, ha alzato la maglietta davanti a noi, aveva centinaia di frustate sulla schiena perché aveva questo negozio di narghile, di pipe arabe, e ne aveva tenuta una e voleva assolutamente farcela vedere, dice adesso siamo liberi, ce l'ho, posso fumarla di nuovo. Cavolate, dettagli, in realtà no. che vanno via via sempre crescendo. Un caso di vita quotidiana di Raqqa che voglio raccontarvi, non voglio parlare troppo di casi crudi, ma voglio farvi capire cosa succede quando la mentalità maschilista si insinua nel potere e arriva al potere. Perché molti di voi diranno, vabbè, ma in Italia queste cose non succedono. Qualcuno si ricorda la buon costume, la polizia che fino agli anni 80 era attiva e negli anni 50 suggeriva alle donne stuprate di sposare il loro stupratore. Questa era l'Italia. Chiaro, lì il potere, quella forma di maschilismo è arrivato al massimo vertice, è arrivato all'amministrazione, alla legge. Questo caso, tra l'altro, che ho racchiuso in un libro che verrà pubblicato ad aprile, che cerca di fare dei parallelismi tra la vita quotidiana di Raqqa e alcuni aspetti che noi troviamo in Italia, quindi quella famosa forma mentis di cui vi parlavo prima. Questo caso è di una ragazza. Questa ragazza stava stendendo i panni, un caso documentato, perché per fortuna è rimasta viva. È un caso documentato in cui lei stava stendendo i panni nel suo giardino, cioè nella parte dietro della casa. Una brigata di Arkansas, cosa sono le Arkansas? Sono un gruppo di donne, un gruppo di polizia di donne, era un gruppo di polizia di donne di ISIS, quindi un maschilismo nella realtà femminile. Queste donne avevano come compito di reprimere altre donne, di assicurarsi che queste altre donne non si comportassero in un certo, si comportassero in un certo modo e non facessero diversamente. Queste Arkansas erano chiaramente armate, mentre tutte le donne di Raqqa no, avevano quindi dei privilegi. Cosa hanno fatto quando hanno visto questa ragazza che mentre stendeva gli si è allungata la manica un po' troppo? Vi sto facendo i dettagli principali. Hanno sfondato la porta, sono entrati in casa, sono fiondati su di lei, la comandante della brigata gli ha strappato la maglietta alla ragazza, si è messa in bocca un beater, che sono dei denti affilati di metallo usati nel medioevo cristiano, e gli ha strappato un seno. Perché l'ha fatto? Perché è proprio un seno, perché è un simbolo di femminilità. Pensate quanto può insinuarsi questo modo di pensare nella mente della gente. Questa era Raqqa, questa era la quotidianità di Raqqa. È rimasta viva, il marito l'ha trovata ovviamente con grandi perdite di sangue ed è riuscita a farla curare. Ma questa era Raqqa, questa era la situazione. Ma io vi chiederei anche un'altra cosa, altri due punti vorrei dirvi. E chi ha fatto gli attentati in Europa? Qual è il profilo delle persone che hanno fatto questi attentati? Qual è la maggioranza delle persone che dall'Europa, e farò il caso italiano, sono andate in Siria? Cioè qual è la tipologia di persone? Chi si è isolato? Chi è entrato dentro l'ISIS? Da qui. Sapete che la città di reclutamento d'Italia più grossa, è la mia, è Padova. È la città con più reclutamento di ISIS d'Italia. Noi contro ISIS siamo stati circa 13-15 italiani che hanno combattuto tra le fine dello YPG e delle YPG. Sapete quanti italiani si sono uniti a ISIS? Chi è che lo sa? A parte chi studia queste cose, quindi non... Provate, sparate un numero. Vai, butta un numero. 100, 10, 2000? 50. 50, qualcun altro? Lì dietro? Provate un'idea. 13-15 italiani anti-ISIS, quanti cittadini italiani sono sentiti, sono stati fatti, sono avvicinati a ISIS e sono entrati tra le file del califfato nero? Dagli 80 ai 130. Dagli 80 al 130. Il profilo di queste persone tendenzialmente sono giovani, ovviamente dai dati che sono arrivati alla polizia o che sono stati intercettati dall'intelligence. Giovani, bullizzati, isolati, religiosi ma non troppo. Un caso famosissimo è quello di un ragazzo belga, Bontinki, di cui ho conosciuto il padre. Questo ragazzo belga aveva 16 anni, è entrato in un gruppo WhatsApp che si chiamava Sharia for Belgium. In questo gruppo WhatsApp, questo ragazzino di 16 anni è stato di fatto reclutato. Ha detto alla madre che andava in Turchia in vacanza, invece della Turchia, ovviamente, è entrato dentro i territori di ISIS. Il padre, non accettando la cosa, questo signore dell'est Europa che vive in Belgio, che tra l'altro ha scritto anche lui un libro molto interessante sulla sua vicenda, sapete cosa ha fatto? Non ha accettato che suo figlio fosse stato reclutato da ISIS, ha preso ed è sceso in Siria per riportarselo a casa. È stato torturato da una brigata salafita molto vicina a ISIS, è riuscito a entrare in contatto con ISIS, si è fatto ridare il figlio giocando sul fatto che era il padre, un tema che loro molto rispettano, ed è tornato a casa dopo essere stato torturato. Questa è un'altra vicenda che si collega alla realtà di ISIS. Quando parliamo di profili europei, ricordiamoci che la maggior parte degli attentati è stata fatta da persone nate e cresciute qui. Chiaro, ma allora perché siamo andati a combattere a Raqqa? Cioè cosa serviva colpire il centro del califfato in Siria se il problema, almeno in Europa, era qui? Gli abbiamo tolto, gli abbiamo annichilito il centro militare. Vuol dire che adesso nessuno può alzare la cornetta, chiamare e dire: guarda, io vorrei fare un attentato per tante ragioni, spiegatemi come fare. Questo non c'è più, perlomeno non c'è più a Raqqa, non c'è più quel livello organizzativo, non c'è più quella propaganda così stratosfericamente evoluta. Ma tutte le altre persone, il numero più alto di combattenti stranieri di ISIS sono i tunisini, insieme all'Arabia Saudita, alla Russia, ovviamente alla Turchia. Perché queste persone sono andate lì? Più ancora che gli europei, sono andati lì perché avevano dei benefici. Non erano per forza veramente religiosi molti di loro. Dicevano: vabbè, ma sì, sono religioso, ma neanche troppo. Vi ricordate Amir, l'attentatore di Milano? Sua madre l'ha descritto come un drogato alcolizzato che non praticava la religione. È stato arrestato in Italia, si è radicalizzato in un centro di permanenza temporaneo italiano della polizia italiana e poi ha fatto l'attentato a Berlino. Come sapete, poi è stato fermato a Milano. Queste persone, noi avevamo una base a Shaddadi, che è una base militare di una zona liberata. All'interno di questa base c'erano tante casette. Queste casette avevano scritto in russo, avevano scritto in lingue dell'Indonesia, avevano scritto in diverse lingue di diversi paesi. Sapete perché? Perché queste erano le casette che venivano regalate alle persone che si univano a ISIS dall'estero. Sostanzialmente ti compravano. Dicevano: vabbè, non ti dà troppo fastidio l'Islam. Beh, guarda, noi ti diamo schiave del sesso, le shibari, in lingua. C'era addirittura un listino, io ho trovato un documento in uno degli assalti che abbiamo fatto a un quartier generale di Tapka, sfortunatamente non ce l'ho qui ma magari ve lo mando per un'altra volta, con i prezzi delle donne. Quanto costava comprare una yazida, una shibari, una schiava del sesso? Ti davano una schiava del sesso, ti davano una casa, ti davano una serie di facility, ti davano un mondo, ti davano un'ospitalità, a prezzo molto caro ovviamente. Qualcuno se n'è pentito. Un altro caso famoso è Sally Johnson, ex cantante rock britannica con due bambini, è diventata una delle principali reclutatrici di ISIS in Inghilterra. Quindi un profilo completamente estraneo a quello che pensavamo prima. E invece lei è stata colpita da un bombardamento aereo, quindi è morta, e speriamo che invece i figli siano vivi, mi auguro, però non sappiamo sinceramente dove siano. Questa è un'altra reclutatrice di ISIS. Quindi questa è una parte del mondo jihadista, in questo caso di ISIS, che ha colpito quelle realtà e che in realtà ha colpito anche il resto del mondo. Un'ultima cosa che voglio dirvi, questa è del 13 marzo, le fake news. Penso che tutti noi in questa sala abbiamo sentito la più famosa delle fake news, che è quella in Italia, credo, tra le più famose, che è quella per cui gli zingari rubano i bambini. Ecco, io ho guardato tutti i dati dell'Interpol, tutti i dati possibili disponibili sulla questione, e in 20 anni non hanno mai rubato un benedetto bambino in Europa. Adesso io quasi quasi vorrei diventare zingaro e rubare un bambino, così alziamo la statistica. Però, a parte questa è una tipica fake news. Chi altro provoca fake news e con quale scopo? Gruppi terroristici. Questa è una fake news, è stata sgominata una cybercellula jihadista che diffondeva volontariamente e sistematicamente fake news. Ma perché impiegare capitali e sforzi per produrre fake news quando hai un esercito e una battaglia da portare avanti nei tuoi territori? Perché le fake news possono portare alla morte, possono fomentare la rabbia, portare gente dalla tua parte, basate su quelle fake news, e indirizzare dove serve. Vi faccio il caso più estremo che è successo a noi. Verso la fine dell'operazione della città vecchia di Raqqa c'è stato un compleanno di un nostro combattente, un finlandese. Io e altri 3 siamo andati a festeggiare questo compleanno, c'è andato un giorno di pausa, mettiamola così, mezza giornata di pausa. Siamo andati ad Asake, sempre zona di guerra ma non di conflitto, non di fronte. Dopodiché siamo scesi in base a Shaddadi, siamo andati a dormire. Era una nostra base, non possiamo ovviamente dormire in giro in quanto guerriglieri. Siamo scesi a Shaddadi e la mattina dopo alle 6 siamo andati via. Qualche giorno dopo mi stavo connettendo, avevo trovato finalmente benedetto internet, per cercare di aggiornare la situazione e di capire cosa stesse succedendo. E ho trovato un comunicato in arabo che diceva che stavano, quel giorno lì in cui noi siamo andati via dalla nostra base, stavano attaccando la base militare americana di Shaddadi. Cioè, quindi ISIS ha messo in giro una notizia, che era quella che c'erano degli americani in una base a Shaddadi e che la stavano attaccando in tempo reale. Sapete cosa hanno attaccato? La nostra di base. Perché qualcuno ci chiamava Merichi. Loro sapevano benissimo questa cosa. Ma hanno fomentato la rabbia della gente di Shaddadi, che una parte di quelle persone era pro-ISIS, e hanno messo in giro una notizia falsa per reclutare qualcuno da mettere insieme. Quindi una notizia falsa ha provocato un indottrinamento di quel momento, ha fomentato la rabbia contro gli americani, hanno giocato su questo, hanno giocato sull'anti-americanismo, e tre ore dopo che noi siamo andati via, un comando di ISIS è fatto esplodere i nostri cancelli, ha ucciso tre ragazze tra le nostre YPG, che erano di guardia, è penetrato dentro il nostro territorio della base, del compound, e si è fatto esplodere. Una parte si sono messe a sparare, l'altra si è fatta esplodere davanti alla nostra base, dove però non c'era nessuno in quel momento, perché noi eravamo a Raqqa in operazione. Come una fake news possa alimentare? Come difendersi dalle fake news? Spero farete conferenze in futuro su questo. Ma direi che la prima cosa è, se il titolo di una notizia vi fa incazzare e subito gioca sullo stomaco, vi fa indirizzare la rabbia verso qualcosa, probabilmente è una fake news, non per certo. La seconda cosa, analizzate le fonti, e mi occupo anche di giornalismo e di informazione. Analizzate la fonte, se l'ha condiviso xx.com, forse non è esattamente una notizia attendibile. Provate a guardare chi la sta condividendo. Terza cosa, analizzate il contenuto dell'articolo. Non condividetelo prima di farlo, perché condividere una cosa arriva a tante persone e qualcuno un po' più debole, un po' più incazzato, può decidere di prendere un Kalashnikov e utilizzarlo. Non vorrei farvi il caso più famoso di Macerata, dove una persona si è sentito libero di sparare da un furgone in movimento contro dei passanti, ipoteticamente per vendicare un omicidio che era successo qualche tempo prima, e poi alla fine si è messo una bandiera italiana, vi ricordo Traini, e ha fatto il saluto fascista. A me non è preoccupa il gesto in sé, che è già terrificante e ricorda molto ISIS, perché in Iraq e in Siria ISIS dai furgoni, dai pick up, letteralmente sparava dai finestrini alla popolazione che camminava, che riteneva tendenzialmente di religione yazida o comunque di altre entità non vicine a ISIS. Questo atteggiamento è un chiaro atto di terrore. A me preoccupa il fatto che alla fine abbia messo una bandiera, quella del nostro paese, e alla fine abbia fatto un saluto. Cioè lui alla fine ha cercato di legittimare tutto quello che aveva fatto, dandogli un contenuto politico, che qualcuno addirittura ha seguito. Qualcuno davvero gli ha dato ragione. A una persona che codardamente, proprio un codardo, da una macchina in corsa ha sparato a dei passanti. Cioè, si è sentito accolto. Questo faceva ISIS anche, creava contenitori di informazioni falsi per far sentire le persone accolte e indirizzarle verso delle azioni, far sentire tu fai questa azione, tranquillo, sei uno di noi, ti spalleggiamo, non ti preoccupare. Tanto è che ISIS tuttora lo fa, i gruppi rimasti in Afghanistan, perché ci sono altri gruppi esterni, Afghanistan, Libia, Sinai, Boko Haram, in Africa, Centrafrica, continua a rivendicare anche azioni non compiute da loro stessi. Qualcuno fa un'azione e loro la rivendicano per continuare a creare quel mondo di terrore. Io potrei citarvi adesso 40 gruppi terroristi medio orientali e non ne conoscereste uno probabilmente. Però tutti voi, e se faccio questa conferenza in Malesia, in Canada, in Sudafrica, conoscete ISIS. Com'è possibile? Perché ce l'hanno fatta da quel punto di vista. Sono riusciti a comunicare, hanno usato la cassa di risonanza dei giornali. Infatti mi è piaciuto molto quello che fece Frans Van Katte e Le Monde di non citare i nomi dei kamikaze di ISIS in modo che nessuno potesse commemorarli, perché a noi fa impressione il Bataclan, a noi fa impressione Londra, a certe persone il Bataclan è un atto utile e quindi commemorano il terrorista. Una breaking news di ieri pomeriggio che non posso farvi vedere per la ragione che ho appena detto, ma ve la racconto. ISIS ha messo in giro dai territori di Deir ez-Zor un'immagine in francese di un mio amico che era in accademia, una persona che ho conosciuto in accademia, non ci ho combattuto insieme perché io stavo uscendo dopo la liberazione di Iraq e lui stava entrando. Un ragazzo francese molto giovane, di 18 anni, ISIS ha mandato in giro un comunicato in francese con la sua fotografia, ricercato. Ovviamente non la condivido e spero che nessun giornale lo faccia, perché chiaramente andrebbe a favore solo di qualcuno, questa cosa. Fake news e terrorismo. Così si alimenta il terrore, creando falsa informazione, alimentando lo stomaco di qualcuno contro qualcun altro. Una cosa veloce che vorrei dirvi. Conoscete buona parte di queste bandiere, di questi loghi? Perché vi ho detto che abbiamo combattuto contro un nemico, contro una forma mentis, contro ISIS, ma anche contro i jihadisti turchi ad Afrin. Ma per cosa abbiamo combattuto? Un po' ve l'ho accennato, il confederalismo democratico, il copresidenzialismo, l'uomo e la donna, la parità di livello, la libertà per le donne, ma non solo, tante altre cose, tra cui una è il multiconfessionalismo. Cioè ogni città nostra, i cristiani, gli yazidi, gli islamici e gli atei, ricordo che tutto l'esercito guerrigliero è ateo, hanno pari dignità e pari livello. Parliamo del Medio Oriente, vi ricordo che ci sono paesi in Europa con problemi di religioni. Parliamo del Medio Oriente. Ovviamente la parte guerrigliera e rivoluzionaria è più evoluta della società civile va più piano, ma su questo sono più competenti altre persone qua. Comunque ho avuto vari contatti con la società civile, tuttora lì ovviamente per varie ragioni, va leggermente più piano, cioè la questione della donna non è già finita, non l'abbiamo già liberata la donna in quell'area, non si è già liberata, è ancora in corso ovviamente. La prima bandiera sono gli IEVECE, ovvero le unità di aziende maschili, quelle generali, lo IEPEGE, le unità di protezione popolare in cui ho combattuto, le unità yazidi femminili, le IEGECE, che ho avuto la fortuna di avere accanto a Raqqa come un battaglione. E sinceramente vi voglio raccontare, se me lo permettete, una piccola storia, anche se non c'è la fotografia, di un incontro di questo battaglione. All'interno di questo battaglione c'era una ragazza di 22 anni, piccolina, con i capelli rossi. Poteva sembrare una nostra coetanea, ragazzi. Giovane, piccola, quasi mingherlina per certi versi. Questa ragazza era in questa unità di difesa femminile yazida. Questa ragazza, mi hanno raccontato le sue compagne, era stata trascinata dentro Raqqa, era stata rapita dal suo villaggio, trascinata, era diventata una schiava del sesso per diverso tempo. Si parlava, qualcuno mi ha detto quasi un anno, qualcuno mi ha detto 8 mesi, comunque un tempo molto lungo. Lei sicuramente era legittimata a tornare a casa, a riposarsi, dopo che è riuscita a scappare da quell'inferno di violenze di quasi un anno. E invece cosa ha fatto? Sì, è tornata a casa in Iraq, a Shengal, dove abitava con la sua famiglia, anche se non so bene la sua famiglia che fine abbia fatto. È tornata lì e poi ha detto: no, io non posso farlo, non posso restare qua. Non posso far sì che qualcun altro possa subire quello che ho subito io. E questa ragazzina di 22 anni a Raqqa, quindi prima era più piccola, credo ne avesse 19 quando è stata rapita, ha deciso che non poteva accettare che un'altra donna potesse subire la stessa cosa. E cosa ha fatto? Si è unita alle unità di difesa yazidi, è tornata a Raqqa, dove c'erano i suoi carnefici, ha impugnato un fucile di precisione, è diventato un cecchino. Vi racconto questa storia perché secondo me a me ha molto colpito. Avere la forza di pensare agli altri dopo quello che ti è successo, avere la capacità mentale di dire non voglio che succeda a nessun'altra, è qualcosa secondo me di assolutamente di valore. Ok, sì. Voglio farvi provare una cosa, spero che mi asseconderete in questo, di solito lo fanno nelle altre conferenze, quindi vediamo anche qua. Noi abbiamo parlato di resistenza, abbiamo parlato di ISIS, abbiamo parlato di Turchia, di Afrin, abbiamo parlato di tutto questo, quasi in maniera forse romantica, la resistenza armata, forse Cuba ce l'ha ricordata per certe ragioni e ci fa pensare sempre questo, però noi abbiamo combattuto in una guerra. E io cerco di mettere sempre questo momento per ricordare che non c'è niente, niente, niente di bello in una guerra. E ve lo dico io e molti altri che ci abbiamo combattuto in questa guerra. Voglio farmi capire che il mio discorso non è tranquillo e lineare, tutto è simpatico e rivoluzionario, non è così. La guerra è il fallimento del dialogo, è una gamba in setticemia. La guerra è questo. Quello che voglio farvi provare è farvi sentire una nostra notte. Questo è un audio che ho registrato, un momento, una tarda nottata, quasi la mattina, in cui cercavo di dormire. Avevo 4 ore. Per farvi capire, ognuno dormiva delle ore diverse, ma tendenzialmente io dormivo dalle 4 alle 5 ore, ho dormito in media dalle 4 alle 5 ore per 7 mesi. Dove dormivamo? Ragazzi, non è che c'erano le brandine. Dove trovavamo, quando liberavamo, ci buttavamo su quello che trovavamo. Il mio amico ha dormito per una notte su una specie di battanì, una coperta sottile di colma di sangue, pur di non appoggiare la schiena a terra. Quindi non dovete immaginarvi quello che vi sto raccontando adesso. Avete fatto colazione, avete pranzato, avete dormito bene, immagino. Siete qua tranquilli ad ascoltare questi discorsi di rivoluzione, di resistenza, di cambiamento. Dovete farlo come lo facevamo noi. Dovete farlo stanchi, avendo dormito nulla per mesi, con la pancia molto vuota, molto spesso. In una battaglia per 18 ore non abbiamo avuto acqua, per fortuna poi è arrivata. 18 ore senza acqua dopo una battaglia di 24 è qualcosa che dovreste provare, ma vi auguro di no. Quello che voglio farvi provare, e vi chiederò di chiudere gli occhi, vi chiederò di chiudere gli occhi per voi, per farvi provare questa cosa. Vi farò sentire con questa stanchezza addosso, con la schiena spezzata, con il cibo mancante, con l'acqua che arriva centellinata e con ISIS a pochi metri da voi, vi faccio sentire questo audio. Quando io cercavo, come cercherete adesso voi, di dormire per quelle benedette 4 ore che avevo prima di tornare in guardia, quello era un fronte, eravamo a pochi metri, eravamo circa a 60 metri dalla prima linea di ISIS, che ci sparava contro. Era un momento di difesa, noi sparavamo in difesa, loro sparavano. Non è che mentre io dormivo i nostri compagni stavano dormendo. Io avevo quel turno, dovevo dormire in quel momento, gli altri continuavano a combattere ovviamente. Pronto con l'audio? Chiudete gli occhi per favore, prima di iniziare. Chiudeteli tutti. Immaginate la pancia vuota, la schiena stanca. Non avete dormito. Questo è l'unico momento per ridere. E lì chiudete gli occhi perché non ce la fate più. Siete veramente stanchi. No, a 50 metri c'è Isis. Questo è quello che state ascoltando. Ogni 5 minuti. Quella notte è stata ogni 5 minuti, questo è quello, aprite pure gli occhi, che avreste sentito. Ogni 5 minuti, questo era l'unico momento che avevate per riposare. E ogni 5 minuti questo è quello che sentivate. Io ho messo questo momento per farvi trasmettere un pochino di quegli istanti, per farvi capire non solo con le parole ma anche con le sensazioni cosa significa reagire in quel contesto. Da un momento all'altro qualcuno ti sarebbe arrivato a svegliare, è venuto a svegliarti con un calcio, veloce, veloce, veloce, Tisha, ci stanno attaccando. È successo anche questo più volte. Così dovete immaginare la guerra, non in un altro modo, perché è così. Questo è stato un attacco abbastanza grosso, questa era Tabqa, prima di Raqqa. Volevo lasciarvi questa sensazione. Ok, voi vi chiederete, ma che cavolo ci fanno questi tre personaggi dietro di me adesso? Qua siamo in un'università. Sono sicuro che il vostro rettore, o anche i vostri professori in realtà, ma anche dei giornalisti, ma anche degli accademici in generale, tutte queste persone, in un paese che al momento supporta l'invasione di Afrin, ovvero la Turchia, sono considerati terroristi. Ricordo che 2 anni fa, il governo di Erdogan, più o meno 2 anni fa, ha azzerato i direttori delle università e gli accademici di quasi la maggior parte delle realtà universitarie. È come se adesso entrasse qualcuno e togliesse il lavoro al vostro rettore, ai vostri professori, a me come giornalista, ma è più come combattente. Quindi tutte queste persone, me incluso, siamo tutti terroristi in quel paese. In Europa no, in Europa siamo eroi, ma là no, là siamo terroristi. Io se atterro a Istanbul, e questo è vero, insieme agli altri, prendo 7 anni di carcere per terrorismo. In Iran molto probabile, in Iraq va a momenti, dipende come gli gira. Il vostro rettore, per quello che insegna, per quello che spiega, per quello che gestisce i vostri professori, rischiano un trattamento molto simile. Ma la domanda che vi faccio io è quindi, riflettiamo un attimo su chi viene definito terrorista. Perché spesso si viene definiti terroristi, vengono definiti terroristi coloro che insorgono. Coloro che cercano di resistere per qualcosa di giusto vengono definiti terroristi. Invece prima ho cercato di spiegarvi la mentalità del terrore. Gli YPG e gli YPG sono considerati gruppi terroristici in Turchia. I giornalisti sono stati fermati più volte in Turchia. I giornalisti italiani sono stati espulsi dalla Turchia per sedizione. Il caso più famoso, che vi cito, è l'uomo che ha dato al mondo la prova che la Turchia era legata a doppio nodo a ISIS, perché un conto è speculare, un conto è dire vabbè la Turchia è con ISIS, ma questo lo diciamo noi. Troviamo i dati, la realtà, i fatti. Can Dündar, Can Dündar, il direttore, l'ex direttore del Cumhuriyet, uno dei principali quotidiani turchi, che qualche anno fa ha svelato un camion di farmaci che entrava in territorio di ISIS per aiutare in teoria i feriti di ISIS, e invece era colmo di armi turche. Un camion governativo. Il poliziotto che ha scoperto il camion è sparito. Il magistrato che ha dato l'informazione al giornalista ha avuto dei problemi e non so se sia sparito, ma mi informerò. Can Dündar, che è il direttore del giornale che ha pubblicato la notizia, è stato messo sotto accusa, ha dovuto subire un processo, fuori dal processo l'hanno quasi ucciso, ha subito un attentato, per fortuna si è salvato, ora è scappato in Europa ed è rifugiato in Germania, insieme alla sua famiglia. Ovviamente in Turchia non c'entra più. Che fine ha fatto il giornale che ha pubblicato la realtà, quella notizia? Ha subito un raid, sono entrati negli uffici e hanno distrutto i computer, rubato gli hard disk, distrutto gli schermi, distrutto le attrezzature che avevano. Questo è quello che è successo. E l'hanno ovviamente chiamato terrorista per aver pubblicato quel video che in Italia è girato da Euronews. Io vi chiedo una cosa, penso che molti di voi conosceranno questi personaggi, probabilmente tutti e tre o alcuni di loro. È una riflessione che faccio spesso in generale, in varie realtà e vari incontri. Chi sono queste tre persone, innanzitutto? Immagino che ne sapete un po', quindi ditemelo al volo. Il primo a destra? Primo a sinistra? Il centrale? Su questo cadono un po' tutti. Dai, ci sarà qualcuno che sa chi è la persona in mezzo? Bravissimo. Il sovrano Suleiman II dell'Arabia Saudita. Non so se sia ancora in carica a livello politico, ma il punto è, ha una forte influenza su tutto il regno, ovviamente. Chi di loro è un terrorista? Mezzo. Beh, l'avete un po' sparata. Ah no, per me Ah no, ok, per te allora rispetto l'opinione. Chi di loro è stato dichiarato e indicato come terrorista, tra l'altro in alcuni casi fino quasi al 2000? Nelson Mandela è stato sulla lista antiterrorismo degli Stati Uniti anche mentre era presidente del Sudafrica. Nelson Mandela, ex presidente del Sudafrica, leader della lotta contro l'apartheid, era stato definito terrorista dal governo sudafricano e dalla lista americana della CIA. Anche mentre era presidente, per una serie di qui pro quo. Sandro Pertini, ex presidente della Repubblica Italiana, ex combattente partigiano, terrorista, definito così ovviamente dal governo italiano fascista, non da me e spero neanche da voi. Futuro presidente della Repubblica. Quello in mezzo non l'ha mai chiamato nessuno così. Eppure è a capo di uno Stato dove le donne guidano la domenica, perché gli altri giorni non possono. Non ho mai capito perché dovresti guidare la domenica, comunque si vede che si sentono meglio le donne a guidare la domenica in Arabia Saudita. Fino a qualche anno fa non potevano guidare neanche la domenica, era vietato guidare. È a capo di un paese che ha dato il voto alle donne, mi pare nel 2015-16, l'altro ieri. È a capo di un paese che ha bombardato lo Yemen senza mandato internazionale. È a capo di un paese che qualcuno ha definito capace di provocare terrore. È a capo di un paese che ha finanziato, direttamente e indirettamente, le truppe di ISIS. Quando parliamo di terrorismo, insegniamo alla gente cosa vuol dire saper distinguere chi usa il terrorismo come forma di discriminazione verso chi resiste per noi. Le suffragette vengono chiamate terroriste. Ve le ricordate le suffragette? Il voto delle donne in Inghilterra? Quindi riflettiamoci. Questo è solo uno spunto, ovviamente dovete ragionarci voi. Prima vi ho parlato di mentalità del terrore, ora vi ho parlato di etichette. Io ho studiato psicologia, quindi le etichette mi interessano, mi fanno capire e sviluppano dei percorsi importanti, fanno capire come si pensa. E questo mi ha sempre fatto specie, immaginare che Nelson Mandela era per qualcuno un terrorista e Sandro Pertini era per qualcuno un terrorista. Avanti. Siamo forse verso la fine? Poi c'è da spazio alle domande se avete piacere, spero di riuscirci, che devo scappare a Milano, cioè a Padova poi a Milano. Questa slide è la penultima, l'ultima di presentazione, la penultima di oggi. È triste, però forse dovete sapere, dovete conoscere i volti di queste persone. In realtà i volti che vorrei farvi conoscere sono tutti dietro, sono tutte le persone che sono cadute per noi, per far sì che Raqqa non ci fosse più nelle mani di ISIS, che sono caduti per il confederalismo democratico, per la libertà in Medio Oriente, nel nord della Siria, per dare una speranza. Queste persone, ne ho messe tre in rilievo, perché voglio raccontarvi rapidamente qualcosa di loro, che per me è stata importante. Ho promesso alla famiglia di queste persone che avrei sempre portato il loro nome e il loro volto, oggi. oggi, in ogni momento, in ogni istante. Però mi parlerà di una persona che invece non ho conosciuto, ma che era con noi, era nel nostro esercito, era nelle YPG. Lei è morta poche settimane fa, ad Afrin, colpita da un missile turco su un convoglio. Il suo corpo giace aperto su quel convoglio adesso, mentre io sto parlando con voi. Perché vi dico questa cosa macabra? Perché suo padre l'ha scritto e l'ha messo in rete e ha detto all'ambasciata inglese, ha detto al suo governo e alle ambasciate inglesi: fate qualcosa, fate un cessate il fuoco con la Turchia. Lo YPG e le YPG hanno tentato di recuperare il corpo, ma la Turchia non ha mai fatto, non ha mai accettato il cessate il fuoco per recuperare il corpo. Vi posso dire che invece perfino ISIS l'ha accettato. Robert era un mio caro amico dell'Accademia dello YPG, l'avevo conosciuto lì. Robert è morto in un'imboscata di ISIS a luglio, poco prima che io combattessi, 5 giorni prima che io combattessi, nella stessa zona. Il suo corpo è stato dilaniato e nessuno di noi è riuscito a recuperarlo, nessuno delle nostre truppe è riuscito a recuperarlo. È caduto in un'imboscata insieme a Rodi e Soro, due nomi di battaglia di un americano che viveva in Francia, un ragazzo, e un altro di 20 anni, poco più di 20 anni, inglese, anche lui caduto. Abbiamo chiesto il cessate il fuoco a ISIS per recuperare il suo corpo e siamo riusciti a ottenerlo. Non siamo ancora riusciti a ottenere il cessate il fuoco per Anna Campbell. Suo padre vi chiede, io riporto il messaggio qua a voi, spero che stasera lo farete. Mandate un'email all'ambasciata inglese, mandate un messaggio in Facebook taggando UK Government. Girate l'appello del papà di Anna Campbell, la nostra combattente. Fate che suo padre possa avere il corpo di sua figlia. E ve lo chiedo per favore. Robert lascia una bambina, Tegan, che anche per lei ha combattuto per far sì che vivesse in un mondo migliore, con almeno un po' meno terrore. Robert viveva a New York, di origine californiana. Ci eravamo detti che sarebbe tornato a Padova, veniva da me a trovarmi, dove io vivo, saremmo andati a bere uno spritz. Questa era l'idea, questo ci siamo detti. Così non andrà. Gli abbiamo invitato a New York, della sua famiglia. Mehmet Aksoy. Mehmet Aksoy l'ho conosciuto a Raqqa, avevamo subito un feeling di idee, di pensiero. Lui, loro due combattevano con il Kalashnikov. Mehmet, seppur in divisa in quanto YPG, combatteva con la telecamera. Ci sono vari modi di combattere, la telecamera forse è paradossalmente uno dei più importanti. Portare le immagini, sensibilizzare. Mehmet era londinese, ha vissuto la stragrande maggioranza della sua vita a Londra, ovviamente è curdo come sentirete dal nome. Mehmet era una persona non solo straordinaria, ma capace di raggiungere con le immagini il cuore delle persone. È stato colpito quando Raqqa era praticamente libera. Hanno mandato un convoglio per colpire il media center, per annichilire la nostra capacità di comunicare con voi, con noi. Hanno ucciso oltre 20 persone, un comando ha rubato le uniformi, ha preso dei pick-up, è penetrato nei nostri territori, non sappiamo come, per colpire il media center, che era 15 km più indietro rispetto alla linea del fronte, l'ultima rimasta, ed è stato ucciso. Ci eravamo detti di fare dei progetti insieme, ci eravamo detti organizziamo, diffondiamo in Europa, quando torneremo organizziamo. Ovviamente anche con lui non sarà possibile. E vi assicuro, perché sono andato al suo funerale per porgere rispetto a un compagno combattente a Londra, che è stato molto, molto, molto difficile prendere la pala e girarla sul corpo, girare la terra sulla bara del corpo di un tuo amico morto, di un tuo amico combattente. Quando fino a pochi mesi prima ci stavi parlando. È stato molto difficile. E ho perso tanti amici e tanti compagni, alcuni addirittura dopo la liberazione di Raqqa, Holly, del nord dell'Inghilterra, è morto per liberare una casa da una mina, è esploso. Ha fatto un errore, la sua famiglia, la famiglia di questa casa, chiedeva per favore potete controllare, abbiamo paura ad entrare. Lui ha detto vabbè vi aiuto io, è scattata una mina, è esploso. Raqqa era libera. Così Jack, Kendall è morto sotto le bombe insieme ad Anna poco prima, ragazzo francese della Bretagna. Perché vi dico tutto questo? Perché sto cercando di farvi capire, seppure con tristezza, che forse questi volti dovreste conoscerli, che forse questi nomi e tutti quelli che ci sono dietro dovreste omaggiarli, che forse nel 2018 porgere gratitudine a chi ha dato tutto, inclusa la sua vita, è qualcosa che dovremmo davvero fare tutti. Vi lascio dei contatti e prima di questo un suggerimento, se me lo concedete. Sono banali, spero che non lo siano. Cosa potete fare voi adesso? Non andate a casa e facciate che queste due ore insieme siano servite ad ascoltare dei racconti tristi, importanti di resistenza. Informatevi, e lo sapete già. Evitate queste benedette fake news, non condividete cose che non verificate. Raccontate ad altri, questa è la cosa che vi chiedo oggi. Stasera, quando tornate a casa, dai vostri ragazzi, dalle vostre ragazze, dai vostri amici, dai vostri parenti, parlate, parlate, ma sul serio, prendetelo come impegno adesso qua con me. Tornate a casa, parlate con qualcuno e spiegate cosa avete capito oggi. Così si moltiplica lo sforzo, così il sostegno dilaga, così si cambia il mondo. Beh, donare mi sembra ovvio. La Mezzaluna Rossa del Kurdistan raccoglie fondi per sostenere coi kit medici le aree del Rojava e dell'ultima area di Afrin rimasta. Donate quando avete un minuto. Da noi diciamo a padre ci sono due spritz, uno lo bevi, uno lo doni. Fatelo. Beh, direi che a questo punto lo potete capire da soli. Non accettare intolleranza, paura e pregiudizio? Ma cosa vuol dire in pratica? Perché se tutti lo dicono, ma cosa vuol dire in pratica? Che la prossima volta che siete in strada e qualcuno inizia a insultare una vostra amica in quanto donna, o un vostro amico, o un non vostro amico, una persona completamente in strada, lo insulta perché ha una pelle diversa, lo discrimina perché viene dalla Romania, o qualunque altra cosa, non state zitti. Non c'è bisogno di fare nulla, non serve un Kalashnikov, serve la vostra voce. La penna, la voce e il voto. Andate lì e interrompete il discorso e dite, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Spiegate le vostre ragioni, ma fatelo, no, non siate timidi. La timidezza va a vantaggio del carnefice, sempre. La neutralità non aiuta la stuprata, aiuta lo stupratore. Non ho mai visto una neutralità aiutare una ragazza stuprata, mai. Quindi andate a parlare, intervenite, non siate timidi. Siate delle persone di valore. Infine una cosa che mi è stata insegnata in realtà tanto tempo fa in un altro viaggio importante, a Cuba. L'eroismo civile. Che non è il Kalashnikov, non è la rivoluzione armata, non è nulla di tutto ciò. L'eroismo civile è qualcosa di molto di più, è quello che anche qualche ragazzo di Firenze ha fatto in realtà. È quello di interessarsi alle cose, è quello di usare la propria vita in un modo migliore da quella con cui l'avete usata fino adesso. E cercare di migliorare e intervenire e lasciare qualcosa a questo benedetto mondo. Essere determinanti. Non sprecate la vostra vita, non fatelo. Siate eroi, siatelo sul serio. Questi sono dei contatti dell'Istituto Curdo, che produce informazioni in inglese e in italiano estremamente interessanti, Wikiollus, che è un'altra organizzazione su cui avete aggiornamenti abbastanza costanti, la rete del Kurdistan e YPG Rojava, ovviamente, questo è completamente in inglese, che aggiorna dalle nostre truppe in Medio Oriente, in nord della Siria, nella Confederazione Democratica. Io tengo una pagina, la persona che vi ha parlato qua oggi cerca di informare e di utilizzare tutti gli strumenti che ora può, faccio un po' da connessione e da raccordo con i nostri combattenti giù e fornisco informazione al Corriere, a Repubblica, alla RAI, a chiunque possa diffondere e penetrare quel muro di silenzio che qua c'è, perché non possiamo solo parlarci fra di noi, questo è un errore che si è sempre fatto in Italia. Dobbiamo arrivare a chi non parlerebbe di queste cose, a chi non ci ascolterebbe, alla vecchietta di paese, al macellaio sotto casa, ai bambini in strada, a chiunque. Quindi cerchiamo di diffondere il più possibile. Questa è una piccola pagina Facebook, ma da cui verso la fine dell'Iraq ho iniziato a cercare di far arrivare dei documenti. È il nome che mi diede il mio comandante, cioè il giornalista combattente, ora sapete perché. Quello è un libro, ce ne sono molti altri, qua avrete la fortuna di avere, credo settimana prossima, Davide Grasso, un compagno di Manbij, che ha combattuto a Manbij, italiano, piemontese, che presenterà un libro e vale, prendetelo perché è molto molto interessante. E poi su quello che vi ha spiegato un po', su Raqqa, sulla battaglia, ma soprattutto sulle analisi, sul capire la situazione, sui raffronti, sui confronti, c'è anche questo libro che ho scritto insieme a un collega giornalista, che uscirà a fine aprile, il 24 aprile, che si chiama Nessuna Resa, perché è questo che dobbiamo fare, non arrenderci. Grazie ancora. Domande? Prima domande? Allora, intanto ringraziamo Claudio per aver parlato finora, io credo che sia stato molto forte e anche molto espressivo, e quindi è stato molto bello ascoltarlo, grazie. Adesso quindi vi chiediamo un po' se avete voglia di parlare, di fare qualche domanda e alla fine... Ok, grazie. Quindi vi chiediamo se avete voglia di fare qualche domanda. Se il microfono è abbastanza lungo, giro con il microfono, ma non credo. Invece sì, lo posso fare. Ok, e poi alla fine faremo un piccolo intervento noi insieme gli studenti per spiegare un po' in che cosa si inserisce questo discorso di Claudio che ci sembra molto importante fare adesso. Quindi per le domande... Ciao, qualche mese fa c'erano delle notizie che il governo sirio aveva tipo preso quasi tutta la Siria dall'ISIS. Allora la mia domanda era come si vede un po' il futuro col governo sirio e con l'ISIS e effettivamente col Kurdistan. Forse conviene che le fanno, è piuttosto che ripetere il microfono perché non ci arriverà mai, te lo dico. Cioè proprio a livello tecnico, credo. Qualcun altro? La faccio senza microfono. Bravissimo, grande. Senza simile alla sua e come dire, nonostante io abbia delle perplessità anche su talune tattiche messe in campo dai combattenti curdi e anche sul sistema delle alleanze, non è una cosa, diciamo, che mi prendi a approfondire ora anche per rispetto scusate le parole, alla situazione che stanno vivendo e al sacrificio internazionale, quindi non voglio fare domande troppo tecniche. Però vorrei capire una cosa che mi interessa proprio per la formazione di una posizione chiara rispetto a quello che sta succedendo. Non ho avuto modo, forse una mancanza mia, di capire qual è la posizione dei combattenti curdi dell'Ebri sul futuro della Siria, e con futuro della Siria intendo non il futuro dei territori afferenti al Kurdistan, ma il futuro della Siria come Stato, della Siria, okay. Come Stato, come Stato, come Stato, come Stato. Questi sono problemi tecnici da Siria, dico, cioè nel senso saltano un po' di schiaccia il microfono, ma l'audio. Questa è Siria 2.0, è una confezione. No, mi piace. Non sento quasi in Siria, poi si accanto. Ok, qualcun altro? Adesso mi ricordo a memoria, però la terza, ragazzi, mi sono scritto a scrivere. Stile. Non so dove possa arrivare questa domanda. Alzati per favore, che sono, almeno sentono anche gli altri. Però, visto che alla fine convergono in quella regione così, pressoché tutti gli interessi globali, nel senso così tante nazioni, così tanti schieramenti, alleanze globali, che mi chiedo, può un'organizzazione che comunque palesemente rispetto alla Russia, agli Stati Uniti, l'Iran o tutte le realtà che hanno degli interessi in quella zona, può davvero cambiare le cose? Per quanto ci sia un appoggio per esempio anche dall'Europa, io credo che ci sia, però è così diffuso, cioè così capillare, si va, cioè, nel senso non trova la sua risposta nelle istituzioni, nei media, si trova in qualche sacca come siamo qua ora, però appunto come può il ruolo di un'organizzazione di questo tipo può davvero cambiare le cose? È ovvio che è una domanda che mi piacerebbe che la risposta fosse sì, ovviamente, però volevo sapere. Chiedo se puoi specificare un po' la domanda perché è molto larga al momento. Alle relazioni con gli interessi geopolitici globali. Ok, con l'interesse la situazione nord del Kurdistan con gli interessi geopolitici globali? Ok. Ce l'hai? Ok. Qualcun altro o altra? Però solo ragazzi. Vai. Io avrei due domande. Allora, più ho lanciato in quarta, sì. Vai. Allora no, vabbè, la prima è una domanda banale però sulla quale ci sono sempre 300.000 risposte, quindi da cos'è partita l'ISIS, cioè proprio l'origine. Ok, ISIS l'origine. E l'altra è una domanda più personale, cioè poi rispondere come no, però veramente dove hai trovato tu e dove, insomma, te e altri combattenti avete trovato la forza di fare una cosa del genere, cioè quando è che c'è stato un click umanamente, come è possibile? Come abbiamo iniziato a combattere? Sì, e anche, cioè, mi domando proprio appunto come... A livello psicologico, a livello mentale, a livello psicologico, ma anche proprio fisico. Sì. Ok. fisio, psicologico, insomma. Ok, direi che ne possiamo raccogliere altre due, mi fermerei se per voi va bene. Altre due? Se ne avete, se no rispondiamo a queste. Ok? Mi ricollego alla sua domanda e ti chiedo che cosa ti è cambiato dentro di te dopo aver avuto l'esperienza. Cambiamento post-guerra. Ok, grazie. Ultima? Prego. Cioè siamo proprio a quote rosa, ragazzi, una ragazza e 70 uomini. Vai. No, volevo sapere, hai detto che da Raqqa tutti i combattenti sono andati ad Afrin, però la connessione territoriale... Yepege e Yepege, mi riferivo, non Forze Democratiche Siriane. Vai avanti, okay, però. Però, cioè, dico, nel mezzo c'è questa parte dell'operazione Shield of Fratis che è in mezzo, quindi come mai i combattenti passano da questa parte di Raqqa, Manbij, tutto, ad Afrin, passando dal territorio siriano, cioè occupato dall'esercito. Come mai? Ok. No, non come mai, come? Cioè, come fisicamente? Cioè proprio l'effettivo passaggio? Sì, sì. Questa è una domanda che non ti risponderò chiaramente in pubblico. Cioè, passiamo. Abbiamo dei canali. Abbiamo degli amici. Mi dispiace, non posso rispondere a questo dettaglio, però se vuoi posso, se me la permetti, te la amplio un attimo e spiego come mai è venuto il passaggio. Cioè, quali sono le ragioni strategiche e politiche di quel passaggio, se ti va bene. Ti può andare? Peccato è che è davvero una domanda molto di intelligence, quindi di tecnicismo. Ok, se c'è un'ultima, sennò direi che rispondiamo. Cosa dite? Ok, vai. Tanto è piccola. Vai. Cioè, nell'audio ci ho fatto sentire di te che provavi a dormire. Ah? Però tanto. Sì, ok. Questo me l'ha chiesto in tanti, sì. Perché è avvenuto durante il canto del Muazzin, poi anche tu ti rispondo subito. C'era il canto del Muazzin, c'erano delle moschee sia dietro che davanti, hanno iniziato il canto del Muazzin e c'è stato questo attacco. Totale caso più o meno, nel senso che in realtà si cerca di attaccare e rispondere quando c'è più caos. Più rumore, più distrazione c'è, più è più facile combattere. Quindi è un caos relativo, cioè una casualità relativa, se posso dire. Ok, la prima era? Il rapporto fra Siria e Kurdistan. Tra Siria, ridimela meglio. Siria, ISIS e Kurdistan, vero? Vuoi dire che il governo alla fine stava controllando un po', stava... Capito, quando dicevi che ha tolto molto ISIS, eccetera. Sì, okay. E come si vede il futuro tra il governo sirio e il Kurdistan? Allora, il governo di Damasco, come sapete, ha sempre represso i curdi, quindi la popolazione effettiva curda, discriminandola sia a livello di lingua che di etnia che di altre realtà. Però le forze democratiche siriane non sono solo curdi. Quindi... Vabbè, dopo questo annuncio da campo di concentramento, che sono proprio gli altoparlanti, ha sempre avuto un forte elemento di discriminazione, ma le forze democratiche siriane sono un insieme di più realtà, quindi in realtà la Siria si sta in parte opponendo, in parte alleando con questa nuova realtà che sono le forze democratiche siriane. Quindi al momento com'è la situazione? È variegata. Vorrei... no, la mappa riusciamo a riaprirla all'inizio. Vabbè, nello spicchio di terra sotto dove c'è Deir ez-Zor, a destra della mappa, tra la parte rossa di Assad e la nostra, c'è un accordo strategico. Tra l'altro io sono stato presente a quell'accordo, hanno fatto un G20, una riunione militare generale, in cui si è deciso se Assad supera l'Eufrate verrà respinto, ma noi non andremo oltre l'Eufrate. Per garantire un certo grado di pace nell'area, eliminato ISIS, l'idea era sopra l'Eufrate ci pensiamo noi, sotto l'Eufrate ci pensate voi. Questo è il primo livello. Assake, Kamishlo, Tel Tamer no, però anche queste città hanno una forte componente addirittura territoriale, ci sono proprio delle macchie lì in mezzo, come San Marino, c'è proprio un mezzo, un territorio di Assad a Kamishlo e ad Assake. Vorrei avere la mappa della Siria che avevo io sulle diapositive. Quelle due città hanno un accordo strano, cioè per farti capire, io prendo la macchina, c'è successo, vado su questa strada, la polizia sulla destra, immaginate una strada qua a Firenze, una sulla destra ci sono militari di Assad, o polizia di Assad. Sulla sinistra, stesso mercato, stessa strada, i nostri. Ci veniva abbastanza comica, anche perché questa è una cosa che racconto fuori telecamere, sì. Uno dei nostri gli si è rotta la macchina davanti alla postazione di Assad. Quindi macchina Yepege, fermo, con militare, gli si è bloccata esattamente davanti a un posto di blocco di Assad, ha tirato giù il finestrino, non si è accorta che era di Assad, e fa Dembasce va, ciao amico. Il tipo di Assad lo guarda e fa... Non gli ha fatto così, ma una roba molto simile. Cioè, quindi immaginate la comicità di certe zone, cioè c'è anche il lato divertente. Tra tragicamente divertente. Per fortuna i nostri sono arrivati subito, hanno spostato la macchina, l'hanno trascinata via e è andato tutto a posto. Però capite che abbassare il finestrino, essere uno yepeghe e dire Dembash e Val, ciao amico, a un soldato siriano, questo spiega un po' i rapporti tra Siria e curdi. L'ho usata volontariamente questo esempio, che è successo veramente tra l'altro. E sì, esatto, vedete quella là è Kamishlo, c'è una macchia rossa in cui c'è l'aeroporto tra l'altro, e Asake è quella sotto, poi c'è anche Tel Tamer che non si vede molto bene. Quindi i rapporti sono questi. Ad Aleppo quali sono i rapporti? C'è il quartiere di Sheikh Massoud, completamente curdo, circondato dalle truppe di Assad, c'è un rapporto di ci facciamo i dispetti, cioè c'è l'acqua, te la stacco una volta, il giorno dopo io magari ti sparo su due soldati, cioè è un po' così la situazione. La racconto in maniera comica perché di fatto un po' lo è, per come è gestita. Però, nell'ultimo spicchio di Afrin, adesso ci sono anche le NDF. Cosa sono le NDF? Sono i lealisti di Assad. Quindi c'è un altro rapporto da considerare nella sua domanda. Quindi, quelli che sostengono Assad, ma non sono del regime siriano. Sono sostenitori, militari armati. In realtà ci sono dei carri armati lì, che in teoria stanno proteggendo anche la nostra popolazione, e insieme allo YPG stanno in teoria combattendo. Il problema è che in realtà non stanno facendo quasi niente. Sono lì, ma non si capisce esattamente cosa facciano. Questa è un'altra situazione ancora. Damasco non vede di buon occhio. Vorrei provare a azzardare uno spettro di futuro. Damasco non vede di buon occhio le forze democratiche siriane. Ma d'altro canto c'è la Turchia con gruppi jihadisti che sta invadendo il nord. I turchi pubblicizzano nei loro media una roba abbastanza drammatica, ovvero per i turchi l'idea è, cioè cos'è la fine di questa operazione ramoscello d'ulivo? Togliere Afrin e distruggere tutte le città curde del nord. Che di fatto questo in italiano si chiama pulizia etnica, perché quando tu colpisci una zona solo dove ha maggioranza di un popolo, è di fatto una pulizia etnica. Stanno colpendo solo le città curde, quindi non tutte le città delle forze democratiche siriane, che includerebbero Raqqa, Tabqa, Derezor, la parte sopra di Derezor e Manbij, ma solo quelle curde. Secondo voi, se la Turchia riuscisse a fare questo, cosa si aspetta Assad? Di prendere le altre città, di spartirsi in due il nord. Quindi questo ovviamente è uno dei possibili scenari, non è detto che sia quello che accadrà, anzi sinceramente spero di no, però chiaramente Assad non aspetta molto altro, aspetta di riprendersi Raqqa, di riprendersi Tabqa, di riprendersi una serie di città. Perché ricordo che qua non è un gioco di risico, cioè non è solo un discorso di territorio. Vi ho spiegato cosa c'è nelle SDF. Qua c'è un nuovo modello in atto, di fatto una rivoluzione positiva, un cambiamento positivo. Anche ISIS era una rivoluzione, ma è negativo. Un cambiamento positivo. Qui non è solo un gioco di vabbè, ma sta più simpatici i rossi. Io sento spesso gente che dice: ah, ma dovevate allearvi con Assad. Ma secondo voi ci alleiamo con quello che ci massacra e ci vieta la lingua? Cioè, questo? Abbiamo avuto solo momenti strategici, perché una rivoluzione non può sostenersi senza il supporto delle persone che ci sono intorno. Non potete immaginare che si faccia una rivoluzione e tutto intorno al nostro territorio compare dell'acqua e diventiamo un'isola. Non funziona così, non funziona assolutamente così. I rapporti con gli Stati Uniti, aggiornati ad oggi, sono ancora Manbij gli Stati Uniti, e questo determinerà il flusso della storia, perché se gli Stati Uniti si tolgono da Manbij, Manbij verrà invasa. Questo ve lo posso dare per certo. Se gli Stati Uniti rimangono, non verrà invasa. Rapporti con ISIS, beh, li sai più o meno già, li sapete già. Il governo siriano utilizza ISIS, cioè combatte ISIS, ma lo utilizza anche. Dove lo utilizza? A Yarmouk, ex campo profughi palestinesi dell'OLP. Metà del campo è controllato da ISIS, l'altra metà da dei ribelli jihadisti. Più c'è ISIS in una zona, più è facile per il regime giustificare al mondo attaccare quella zona. Poi premesso e non concesso che la maggior parte dei ribelli, anche quelli di Ghouta, perché a Ghouta non c'è davvero nessun vincitore, a Ghouta muoiono tutti. Assad sta recuperando i suoi territori da gente jihadista, ma dall'altro lato ha un atteggiamento uguale a quello jihadista, cioè ammazzando la popolazione. Quindi ci sono anche queste situazioni di conflitto molto particolari. Una cosa che vi voglio togliere dalla testa, che qualcuno ancora dice, è che l'FSA, l'esercito, il Free Syrian Army, l'esercito siriano libero, sia l'alternativa ad Assad e la rivoluzione in Siria. In realtà di FSA ci sono solo i profughi in Europa. Lì veramente non c'è quasi più nessuno dei ribelli del 2011, 12 e 13. Quindi quando dicono i ribelli è un trick, è un modo per deviare l'attenzione. Di fatto lì ci sono gruppi jihadisti per la maggior parte. Questi sono un po' i rapporti, ho cercato di farlo veloce, ma mi hai chiesto una domanda che sbaglio le altre, facciamo in 30 secondi, questa era gigantesca. Spero sei soddisfatto. Poi se vuoi possiamo parlare ancora, io spero di avere qualche minuto. futuro della Siria dal punto di vista politico? Questa rispondo in fretta, più o meno ho già risposto in realtà. Quello che si cerca di creare è una confederazione democratica, che non è il Kurdistan unito. Questo è un errore. Quando dicono, i curdi del nord della Siria vogliono fare il Kurdistan in Turchia, in Iraq, eccetera, non è questo. Questo è Barzani, questo è il nord dell'Iraq, cioè il Kirghiz, la Repubblica Kurda del nord dell'Iraq. Non è quello che vogliamo fare lì. Infatti c'è Manbij, Tabqa, Raqqa, Deir ez-Zor, che sono città arabe, non a caso. C'è addirittura Shengal, che qua non è indicata, che è collegata ai nostri territori, che sono gli Yazidi. Quindi non è questo in realtà l'obiettivo, non è il Kurdistan unito, almeno non dalla nostra parte. Quello che è più un città-stato alla greca, cioè un confederalismo di realtà cittadine, che può essere in realtà tecnicamente a tutto il mondo, ma a livello teorico. Ovviamente è connaturato lì. Andiamo più veloce. La Siria con gli interessi politici globali, quindi questa rivoluzione... Beh, facile. La Russia supporta Assad, la Russia in realtà ha tentato di portare al tavolo degli accordi i curdi ci volevano andare, peccato che non li hanno invitati, perché la Siria ci ha provato, ma nessun altro voleva portare le forze democratiche siriane e lo YPG e le YPG al tavolo degli accordi. Forse più Andrea voleva forse chiedere più cosa... Arrivo. Questa è Mosca. A livello globale c'è l'Ucraina. Quindi è un gioco di scacchiera. Vi ricordate la crisi dei missili del 62? Cuba mostra i missili da Jupiter dalla Turchia, che erano puntati verso l'Unione Sovietica, per creare uno sblocco con l'Unione Sovietica e togliere i missili sovietici da Cuba, che erano puntati verso gli Stati Uniti. È lo stesso gioco. L'Ucraina è ancora un elemento caldo. L'Ucraina è un territorio di scambio, così come lo è la Siria. Sono giochi di forza, chiaramente. È un po' grossa questa domanda, quindi se chi me l'ha chiesta, non mi ricordo, forse tu, magari 2 minuti resto. A me fa sempre piacere stare a parlare con chi vuole, approfondire alcuni aspetti anche magari più particolari, un po' meno da pubblico, però non ho molto tempo, scusatemi davvero, spero di tornare quando avrò il libro, magari a presentarlo da voi e parleremo ancora insieme. Però ti posso rispondere a qualcosa. L'origine dell'ISIS? Beh, l'origine dell'ISIS è paradossalmente abbastanza facile. Iraq... vi ricordate l'attacco all'occupazione del 2003 americana? Prima di quello c'erano dei gruppi sfigati, letteralmente sfigati, c'erano dei gruppetti comandati da un Giordano, dei gruppetti sfigati. C'era al-Zawiri, c'erano tante altre realtà, al-Zarqawi, forse lo ricorderete, c'era più là, in altre zone, c'erano altre persone, vi ricorderete Osama Bin Laden dall'altro lato, Al-Qaeda, c'erano delle realtà. Questi gruppi erano un po' sfigati, tra cui il consiglio, non so come si pronuncia questo, scusatemi, della Shura, mi pare che si scriva, che è un consiglio che di fatto era un precursore di un Al-Qaeda iracheno, che poi è diventato ISI, non ISIS, ISI, ovvero lo Stato Islamico iracheno, ISI. ISI ha cercato delle alleanze in Siria e ha trovato al-Nusra, questo gruppo jihadista. Con al-Nusra ha cercato di mettere dei capi. Voi vi ricordate Abu Bakr al-Baghdadi? Prima c'era Abu Osama al-Baghdadi, Osama mi pare si pronunci, al-Baghdadi, il precedente. Quest'uomo aveva il controllo di un sacco di cose. Abu Bakr al-Baghdadi, il vero fondatore di ISIS, in realtà era uno sfigato portavoce, che non, realmente non veniva preso in considerazione da nessuno, però aveva la capacità di comunicare ed è uno dei fautori di perché voi sapete la sigla ISIS. È quello che ha capito che fare le canzoni in francese, in inglese, mettere il media center, mandare comunicati, mandare video, avere dei professionisti, cioè ragazzi, a noi ci attaccavano, cioè un'autobomba partiva, c'era una telecamera che filmava il tipo prima di attaccare le nostre truppe, cioè c'era una troupe che filmava il tipo, il drone si alzava in volo, seguiva la macchina e quelli colpivano noi e si esplodevano. Cioè avere una troupe che segue una roba del genere, cioè una roba completamente fantascientifica che però per loro ha funzionato, drammaticamente per noi. Quando l'invasione americana è arrivata in forza, ovviamente, sì, arrivo, mi finisco le domande e poi sono da te. Quando l'invasione americana è arrivata in forza, quei gruppi hanno preso forza dalla popolazione. Io mi ricordo il caso di un signore con cui ho parlato in Iraq che mi diceva, guarda, io aiutavo gli americani. Quando ho visto quello che facevano da noi, ho smesso. Indovinate dove sono finite queste persone che hanno smesso di collaborare con gli americani quando hanno visto, vi ricordate Abu Ghraib, la prigione delle torture americana, la ragazza che frustava, pisciava sui carcerati iracheni? Quando la gente ha visto questo si è molto allontanata ovviamente e si è avvicinata, indovinate a cosa? A quei gruppi che poi sono diventati ISIS. ISIS diventa, nasce, quando Abu Bakr al-Baghdadi di fatto nel 2012-13 connette la Siria all'Iraq e trasforma questa presunta amministrazione statale. Questa è la realtà. Tra l'altro loro veramente credevano di essere uno stato oltre che una milizia. Cioè noi abbiamo, uno degli assalti che abbiamo fatto, abbiamo trovato documenti come se fosse un governo, un ministero. Tant'è che un giornalista, questo è stato veramente intelligente, mi è piaciuto un sacco infatti, è l'unico giornalista che ha intervistato ISIS dentro ISIS, cioè dentro i territori di ISIS, un tedesco. Come ha fatto? Ha giocato sulla loro propaganda. Gli ha detto, voi siete uno stato, va bene, io vi riconosco. Come qualunque altro stato, mi fate un accredito stampa. Quindi hanno detto, ma stai scherzando? Cioè, il ministero di ISIS è deputato a questa cosa, è nato quel giorno, improvvisamente, per dare questo credito stampa a questo tedesco, e l'ha accreditato. Quindi questo andava in giro con due guardie del ministero della stampa di ISIS, che fino al giorno prima non esisteva per fare queste robe. Cioè, per farvi capire, ed è riuscito a filmare un sacco di cose. Poi hanno smesso di farlo, chissà come mai. Però... come combattenti iniziano a combattere, quindi cosa, okay, cosa spinge? Beh, per me, in realtà, posso dirvi di me, dovreste chiedere agli altri cosa li ha spinti. Qualcosa in comune ovviamente tra noi c'è, ma per me è stato, l'ho sempre detto in ogni intervista, però non è stato un iniziare a combattere in realtà, è stato un continuare a farlo, solo con armi diverse. Io sono stato anni, ogni anno per 8 anni in Palestina, sono stato a Gaza, sono stato nel funerale di Nelson Mandela, in contesto di situazioni di conflitto interni o di conflitto militare. Non ho mai impugnato un'arma, avevo una telecamera, avevo la penna, avevo la mia voce, avevo le conferenze a ritorno, avevo quello che potevo. Lì serviva qualcosa in più, è quello che spiegavo anche nel video all'inizio. Quindi per me è stata, so che sembrerà banale, una totale coerenza, cioè una conseguenza. Non possiamo sempre dire l'Italia l'hanno liberata i partigiani, hanno combattuto qua, hanno combattuto là e poi appena accade qualcosa siamo i primi a non farlo. Non devono farlo tutti, questo ve lo assicuro, perché bisogna essere preparati fisicamente, solo per entrare in Siria ci vogliono 20 km di marcia. Non so quanti di voi sono in grado di fare 20 km di marcia di notte con i peshmerga che rischiano di spararti. Cioè, significa anche essere consapevoli di se stessi, avere una certa preparazione fisica ma anche psicologica, su cui ognuno di noi, spero, io l'ho fatto, ha lavorato. Quindi per me è stato un continuare semplicemente dove serviva. Perché lì? Perché lì rappresentava qualcosa di più. Io non sarei mai andato in Siria a combattere solo ISIS. Sono andato in Siria a combattere ISIS perché rappresentava davvero quello che ho sempre odiato e che ritengo negativo, quello di cui vi parlavo prima, quel modo di fare, quel modo di pensare. E dall'altro lato ci stavamo portando qualcosa di meglio, qualcosa che si potrebbe portare anche qua per certi versi. Quindi per me è stato questo, in realtà, il discorso di coerenza e di dedizione. Non possiamo sempre delegare. Cambiamento post-guerra che era dentro tuo? Le prime settimane non è stato molto facile, vi assicuro. Adesso è tornato Marco Gelat, lui è veramente scosso, ma lui cadevano le bombe. Cioè, almeno noi, le mine sono terrificanti. Però sai, a ISIS puoi rispondere col fuoco. Cioè, puoi confrontarti. Quando una bomba ti cade dal cielo, in qualunque istante c'è poco. Non è che punti il Kalashnikov e cerchi di sparare, non funziona. Per me le prime settimane sono state molto difficili perché avevo un impegno anche di attivismo, di giornalismo, di comunicazione, un dovere, soprattutto verso i nostri martiri. Quindi appena sono atterrato a Bruxelles, ho fatto 3 giorni per una cosa a Bruxelles, poi sono arrivato in Italia, sono stato sballottato da una trasmissione, da un giornale all'altro per portare avanti la causa, per farla arrivare a chi non aveva capito, fare tutte queste cose. Però il problema è che io in quelle 2 settimane volevo vedere i miei amici. Quindi è stato parecchio difficile passare da 7 mesi e mezzo di Siria con un pezzo di Iraq e arrivare qua e dover fare l'attivista, dover fare l'informazione, dover fare il giornalista. Cioè, io ho fatto un giorno in cui ho mangiato la sera sotto 5 programmi televisivi e 2 giornali. Cioè, in 3 programmi televisivi e 2 giornali. Tutti pensano, ah, che bello stare sotto riflettori, eccetera. Sì, ragazzi, siete appena tornati dalla guerra. Vorreste stare a casa a riposare, questo ve lo giuro e ve lo assicuro. E invece hai un compito, hai un dovere che ci hanno chiesto loro, tra l'altro. Una cosa che abbiamo promesso ma che ci hanno chiesto, di non far sì che fosse solo la nostra guerretta, siamo andati là a fare gli amanti delle armi. Io non amo le armi, ve lo dico molto, molto fieramente e chiaramente, però se dovesse servire combattere per qualcosa, che è l'unico modo per fermare quell'oppressione, l'ho fatto e lo farei ancora. Ok, come mai hai voluto il passaggio? Però ok, siamo verso, è l'ultima, vero? Secondo me abbiamo più o meno finito quelle domande. Vai, dimmi. Come mai ha avuto il passaggio quello che chiedeva prima che non potevi spiegare? No, beh, posso dire velocemente. Le nostre truppe sono state fatte passare da Rojava, da Manbij, ad Afrin, dopo l'offensiva del 20 gennaio. Quando il 20 gennaio la Turchia è arrivata con i jihadisti, hanno fatto passare molte truppe tirate via da Deir ez-Zor, YPG e YPG, lasciando solo alcune SDF, quindi arabi, sempre di questo contenitore più ampio. lì a difesa, hanno portato via delle truppe SDF da Raqqa, che era stata liberata appunto qualche mese prima, e sono andate tutte ad Afrin, perché Assad le ha fatte passare, un po' per avere carne da macello in realtà, ma questa è un'opinione personale che ci tengo comunque a dire, visto che è un'opinione analitica, non è la mia opinione fatta una mattina, cioè voleva avere molte più delle nostre truppe in una zona in cui potessero essere sconfitte, così da evitarsi un problema futuro nel resto del Rojava. Dall'altro lato è stato fatto passare anche per fare un tentativo comunque di consolidare un'area. Questi sono i principali motivi per cui sono state fatte passare le nostre truppe. Inizialmente qualcuno ha gioito sperando che veramente Assad aiutasse il resto dei siriani curdi e non di Afrin. Però alla luce dei fatti, ragazzi, ve lo ricordate Afrin? Cioè nessuno ci ha dato una mano. Nessuno. Cos'era il canto che... Vabbè sì, l'avevo risposto. Vi ringrazio molto e chi vuole parlare ancora sono qua. A me piace sempre fare una cosa alla fine delle conferenze, se avete voglia, se vi fa piacere, una gigantesca fotografia, perché la mandiamo giù ai ragazzi, magari con le bandiere nostre, la mandiamo giù ai ragazzi e il sostegno che loro hanno vedendo semplicemente i vostri volti, il vostro interesse di essere qua oggi è veramente grande. Quindi se vi fa piacere venite tutti qua, qualcuno prende una fotografia.